Allora, siamo al telefono con Federico Dei Ministri, un'intervista che io anelo da quando faccio questa cosa, quindi grazie Federico. Ciao, evviva il verbo anelare. Anelo, proprio no, è una cosa che veramente mi mancava e sono un vostro grande fan, ecco. Grandissimo fan. Allora, il 14 maggio esce il vostro nuovo EP, finalmente, mi viene da dire, come hanno detto molti altri fan, Cronaca Nera e Musica Leggera, che non è un titolo molto ottimista, diciamo. Di cosa parla questo nuovo lavoro di 4 tracce? È un titolo lungo, che è cosa che ormai non piace ai discografici, perché i discografici ormai vogliono i significanti singoli, le parole singole che facciano subito dram. Di cosa parla? Cronaca Nera e Musica Leggera? Direi che appunto Cronaca Nera e Musica Leggera è forse la sintesi di che cosa parla, o la sintesi di che cosa parla parte del mondo attorno a noi. Allora, a me piace, non so se non l'avete presente, andatevelo a cercare, un film che si chiama Essi Vivono, di John Carpenter, un film dove il protagonista metteva degli occhiali da sole e grazie a quegli occhiali da sole riusciva a vedere il vero messaggio che c'era dietro alle pubblicità, in qualche modo, e quindi vedeva le pubblicità con, diciamo, con il loro sottotesto, con la loro realtà di fondo. E forse il disco parla un po' di questo, e parla anche di confusione, parla della confusione in cui siamo piombati tutti, anche pre-pandemia, mi verrebbe da dire. parla della difficoltà di trovare una luce, un faro, un sapere che ci metta d'accordo in qualche modo. Credo che parli di questo, poi ovviamente dall'altra parte sono anche solo canzoni e non un saggio Einaudi, nonostante la copertina. Ecco, appunto, a proposito della copertina, che sono questi quadrati colorati, si ispirano a sono un omaggio più che si ispirano a Bruno Munari e alla saggistica di Einaudi, appunto. Come mai questa scelta? Ma la scelta qui è stata proprio legata, cioè diciamo una volta finito l'EP e scelte le canzoni, l'omaggio e il tributo alle collane Einaudi è stato proprio voluto proprio per cercare nella nostra memoria in qualche modo un esempio, in questo senso anche grafico, di quello che era una volta un sapere diciamo su cui si era d'accordo, che poi non è neanche vero, nel senso che poi le collane Einaudi in quegli anni, la collana Nuovo Politecnico che citiamo con i singoli, o Piccola Biblioteca Einaudi, che è quella che citiamo con la grafica del disco, in realtà erano collane che avevano tanti saggi di ogni tipo, ma di tutto il sapere che stava avanzando, il sapere nuovo, dall'uomo a una dimensione, a un sacco di altra saggistica, anche rivoluzionaria in qualche modo. Però per noi, per quello che volevano dire quei libri sulle biblioteche che vedevamo da piccoli, erano il simbolo grafico appunto munariano del sapere proprio, no? Di quello che ancora in qualche modo non riuscivamo a capire, ma che ci sembrava solido, convinto per tutti. Poi sono libri che effettivamente poi abbiamo letto, alcuni di questi ci hanno anche in qualche modo cambiato la vita, perlomeno a me personalmente. Però sì, c'era questo omaggio verso un tempo in cui sicuramente il sapere era qualcosa di più collettivo e rassicurante. Poi in realtà, come tutte le verità, era una verità che veniva messa in dubbio, che dopo è diventata verità e poi diventerà dubbio di nuovo, quindi è un po' un ciclo, ecco. Quindi si parla un po' anche di dubbio all'interno di quest'album, quantomeno attraverso le copertine. Ma sì, sai, più che altro il punto è, soprattutto c'è una canzone che nessuno ancora ha sentito, che si chiama Bagnini, che parla un po' di questo, cioè parla del fatto che la cosa buffa di questo momento, di questa confusione di saperi che arriva a mettere in dubbio anche la rotondità della terra in qualche modo, per non parlare di mascherine o cose molto più piccole, come non porti al dubbio, cioè non sta portando nessuno al dubbio, sta portando semplicemente al crearsi di una serie di squadre invece incredibilmente convinte delle loro verità. Questa è la cosa interessante, secondo me. Siamo lo sguardo dei Bagnini quando credono di aver capito il mare, cita la presentazione della canzone. Esattamente, spero che questa cosa ovviamente non agiti contro di noi l'Associazione Italiana Bagnini. Niente di personale, davvero. Ecco. Speriamo di no, è una metafora, ecco. Mettiamola così. Sì, diciamo, probabilmente è ancora la sigla di Baywatch nei nostri occhi, ecco. Fantastico. Quindi dicevamo, il 14 maggio esce questo nuovo EP in una versione particolare, perché poi esce in vinile a 12 pollici e con solamente, diciamo tra virgolette, 4 brani. Perché la scelta di, appunto, solo 4 brani invece di magari aspettare e avere un album intero? Ma in realtà, guarda, noi abbiamo registrato tanto materiale dopo averlo lavorato per tanti mesi, e quindi c'è già dell'altro materiale. Però era interessante il fatto che questi 4 pezzi avessero un discorso un po' loro, mentre gli altri pezzi che abbiamo registrati hanno un altro discorso, cioè stanno facendo un altro discorso con degli altri colori, proprio con delle altre palette. Quindi piuttosto che fare un album molto lungo e con molti toni diversi, abbiamo preferito smembrarli, e siamo molto contenti in realtà di questa cosa. Quindi dopo, insomma, ci sarà sicuramente più in là un altro lavoro e dell'altro materiale che uscirà, ripeto, con un tono diverso proprio da questi. Sale la nebbia sui prati bianchi come un cipresso nei camposanti. Un campanile che non sembra vero segna il confine tra la terra e il cielo. Ma tu che fai? Ma tu rimani, vedrai la neve se Ma tu che fai? Ma tu rimani? Anche la neve morirà domani. L'amore ancora ci passerà vicino nella stagione. Una domanda che per voi poi è d'obbligo: voi siete degli animali da palcoscenico, cioè voi fate live su live in continuazione, c'è un'energia pazzesca. Come avete vissuto questo periodo senza musica dal vivo? Avete sperimentato altri modi di proporre la vostra musica? No, guarda, ti dirò sinceramente, degli altri modi di proporre la nostra musica non ce ne frega niente. Parliamo dello streaming, no? Più sì, semplicemente. No, non ce ne frega niente, non è... Cioè, per noi esistono due dimensioni che sono bellissime, ugualmente belle, che sono lo studio e il live. In studio facciamo i pezzi che dopo escono, mettendoci un'attenzione, una cura e una quantità di tempo che non ha senso probabilmente, ma per noi ha senso. Per quanto riguarda il live, noi siamo... Sì, è vero, magari siamo, appunto, prendo le tue parole, diciamo, degli animali da palco, come si dice, così via, ma noi lo siamo perché lo stiamo facendo per qualcuno. Noi siamo dei tramiti e dei catalizzatori della loro energia. Non lo stiamo facendo per noi. Non è una roba per il nostro ego, che poi ovviamente ha dei feedback e si pasce di, come dire, di un certo effetto di quello che succede. Ma ti faccio un esempio banalissimo: se noi siamo in sala prove a suonare tra noi tre, come capita letteralmente ogni settimana, e stiamo provando del materiale nuovo, siamo super attenti, super seri, quello che vuoi, ma tranquilli e facciamo le nostre cose. Se entra una persona in sala prove, un esterno, un solo esterno, noi cambiamo completamente, cioè diamo letteralmente tutto, anche se sta entrando letteralmente solo una persona. Cioè, noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno degli altri. Senza gli altri, le stesse canzoni comunque sono una cosa anche meno interessante di quello che è. Quindi voi avete continuato comunque a produrre cose. Ecco, musicalmente, abbiamo già ascoltato Peggio di Niente, il singolo nuovo che poi riproponiamo alla fine dell'intervista. Musicalmente, c'è qualcosa che è cambiato rispetto ai lavori precedenti? Qualche influenza che magari è entrata a far parte del mondo Ministri e all'interno di questi brani? Ma allora, ci sono continuamente cose che entrano a far parte. Noi abbiamo uno spettro molto ampio, nel senso che poi abbiamo tre spettri diversi tra noi tre, li contiamo molto tra di noi e così via. Ti direi che non c'è un cambio da un punto di vista effettivamente strutturale, cioè non è che a un certo punto, anche negli altri pezzi che abbiamo fatto, il materiale che abbiamo fatto, a un certo punto ci sono, non lo so, ballate con mega tastierone, batteria elettronica e i tirudi sullo sfondo. Questo no. L'EP è molto rock, molto molto rock. È una specie di come dire, anche un po' un ribadire quello che siamo, però in realtà se vai a vedere, questa è una cosa che magari poi la gente se ne accorge un po' meno, noi ce ne accorgiamo tanto come musicisti, la stessa Peggio di Niente è un pezzo assolutamente anomalo per noi, nel senso che è un pezzo, vado sul tecnico, a 105 di BPM con Miki che fa un breakbeat sotto molto particolare, cioè un tipo di pezzo che non abbiamo mai fatto, cioè non c'è un pezzo simile né per tempo né per divisione metrica. Poi la gente magari, capito, sente il pezzo, sente l'energia, sente, dice semplicemente figo, però in realtà quello per noi è già, diciamo, un esperimento. Nei pezzi che faremo uscire più avanti, non sappiamo ancora quando, ci sono anche lì delle nuove, soprattutto dei nuovi feeling di tempo anche, non so come dire. Una band è principalmente come sa portare un certo tempo, in realtà. Il musicista lo sa, è il motivo per il quale gli AC/DC si dice che, no, che la loro discografia sia solo un lunghissimo pezzo di 60 ore, perché gli AC/DC facevano quello, come se fosse, no, una pizzeria che fa la margherita. Gli AC/DC facevano quello, quel tempo, e lo facevano meglio di chiunque altro. Sì, esatto. Poi se uno fa benissimo una cosa, va bene che faccia anche quello e basta, per carità, perché sì, gli AC/DC... può essere, cioè, sicuramente poi, capito, hai la gente che se, insomma, la gente va a prendere la pizza in quella pizzeria, se la pizzeria si mette a fare il gelato non è detto che voglia il gelato da quella pizzeria, anche se è la pizzeria più buona del mondo, magari continua a voler solo la pizza. Questo è può essere un problema con una band. Noi abbiamo avuto questo problema, ma dall'inizio abbiamo cercato sempre di, senza esagerare, però abbiamo sempre cercato di scompaginare un po' nella questione, abbiamo sempre fatto un po' di esperimenti, siamo andati di qua e di là, abbiamo fatto, insomma, pezzi che hanno funzionato bene e sono delle ballate, pezzi che hanno funzionato bene che sono invece delle manate. Volevi che non eri tu, lo so che sono giorni tremendi, ma perché tanti sforzi per trattenere il vomito? Di cosa hai paura di sentirti usato? Rinuncia a stare meglio per un attimo di peggio e ti dipingi il viso coi colori della resa, e fuori c'è l'odore delle navi da crociera, quando il mare è ancora calmo, cacciati due dita nel cuore e vomita. Cacciati due dita nel cuore e vomita. Le ali che ti hanno venduto ti piegano la schiena, cominci a odiare le domande, ma perché tanti sforzi, potevi dirlo subito, il filo che ti tiene lo si vede appena. E per non bruciarti credi che ti basti giocare con la cera per una vita intera, al tavolo di un bar, di una nave da crociera, quando il mare è ancora calmo, cacciati due dita nel cuore e vomita. Cacciati due dita nel cuore e vomita. Farlo adesso, ora che non hai niente da sporcare, liberati su una nave da crociera, quando il mare è ancora calmo, cacciati due dita nel cuore e vomita. Cacciati due dita nel cuore e vomita. Cacciati due dita nel cuore. Ok, volevo farti una domanda su il mondo della musica in generale, perché la pandemia chiaramente ha massacrato tutto quello che è legato alla musica, la musica live. Una frase ricorrente è: i problemi però nel mondo della musica e degli eventi dal vivo c'erano già prima della pandemia. Secondo te, da artista, comunque da persona che vive all'interno di queste realtà, quali erano questi problemi e cosa si potrebbe fare per cambiare la situazione? Ma allora sì, i problemi ce ne sono sempre, sempre ce ne sono stati, nel senso c'è un po' la narrazione che accompagna il mondo della cultura da quando io ho memoria, è sempre una narrazione di crisi, di problemi, delle cose che vanno peggio e così via. Io francamente sono abbastanza un ottimista e lo siamo tutti noi e quant'altro, quindi quello che credo è che se il mondo tornerà ad aprirsi e torneranno i concerti dal vivo e tutto quanto, ci sarà solo da recuperare, ci sarà una nuova energia e tutto andrà benissimo, insomma, o meglio che può andare. Se continua questa situazione, senza fatta soltanto di robe, di singoli, di uscite al venerdì sui servizi di streaming, sulle band che non possono suonare, non possono crescere, non possono confrontarsi, i localini che muoiono, per la prima volta posso essere pessimista anch'io e dire sì, finirà tutto. Insomma, per ora mi sento ancora di tenere una lucina accesa, no? Ecco, meno male, teniamo questo ottimismo un pochino acceso. E a proposito di questo, c'è la speranza di vedervi dal vivo durante quest'estate o nei prossimi mesi? Sì, per Bacco sì, assolutamente. Non sappiamo ancora precisamente in quali date e non sappiamo ancora precisamente in quali vesti, non nel senso delle camicie, ma nel senso della amplificatori, chitarre acustiche, gente seduta, gente sdraiata, gente sacco pieno, sacco vuoto, sacco mezzo. Questo non lo sappiamo ancora precisamente, però sì, comunque in qualche modo ci faremo vedere quanto possibile, diciamo, anche se sono solo quattro pezzi nuovi, ma cerchiamo di farci vedere. Io penso che intanto c'è una grandissima voglia da parte di tutti quanti di concerti, mia personale, di concerti dei Ministri, quindi non vedo l'ora e spero, insomma, spero sia il prima possibile. E speriamo. Allora, ci salutiamo con Peggio di Niente, il singolo che ha anticipato l'EP, e ti chiedo se c'è qualche messaggio, un saluto che vuoi fare ai nostri ascoltatori. Bah, più che un saluto è un augurio di vederci non presto ma prestissimo e di poterci abbracciare senza troppi pensieri, anche perché insomma chi ci segue sa che dopo i concerti da noi c'è una sana fase di abbracci. Fantastico, Federico, grazie mille, questo è Peggio di Niente dei Ministri, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Point.